It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce. E mentre nella fabbrica di polli aleggia ovunque l'incubo della morte, Kappa e Drago parlano di esercizio fisico. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. No, Kappa, no, anche tu. Cosa? Anche tu? Forza, tu. Anche tu, Drago. Non mi convincerai mai, no, sono un pigro a oltranza. Giù, no, niente, su. Niente ginnastica. Giù, è una cosa fascista, Drago, la ginnastica. Ma che non fascista? Piace. L'esercizio fisico è importante. Ho sentito l'amministratore delegato un po' di mezzanotte fa, non so, lo diceva ai polli. Lo diceva ai polli, vabbè, no, appunto, sì, è fascista. Perché si lamenta che qui i polli non fanno abbastanza moto, capito? È per il tono muscolare, è importante la ginnastica, Drago. Sì, sì, lui dice così, poi però ordina di restringere lo spazio a disposizione di ogni pollo e anzi costringe tutti all'immobilità, così le zampe si staccano da sole appena prendi in mano il pollo ancora vivo. Se ma tu ne prendi schifo. Uno in mano rimane la zampa giù. Ma fa schifo, Drago. È così però, Kappa, te lo giuro. Ma tu non hai mai notato mangiando il pollo che a volte la carne si stacca dall'osso completamente e lo lascia liscio e pulito? Sì. Cosa credi che sia quello? Cos'è? Carne che si stacca. Sì, ma perché? Perché c'è il tono muscolare che è andato a farsi benedire. Altro che esercizio fisico. Polli. Iscriviti in palestra. Tutti in palestra, via. In no, palestra. No, palestra no, capo. Sì, sì, tutti in palestra, io massaggi. Vent'anni che non faccio niente. Massaggi, saune, ciclette, eccetera. Poi alla fine del mese si passa dal direttore amministrativo della palestra. Crestone, quanti dipendenti ti ho portato? Nero su bianco. 75, quanto spendono? 350 euro l'uno ogni sei mesi. Sono 700 euro all'anno e siamo bassi per 75. Quanto fa? Fa tot per cento, quanto abbiamo detto? 15? 16. Ok, per cento? 16%. 15% a me. Ma è così che si fa? Dal padrone della palestra, ma una specie di tagliere, cioè perché è tipo la mafia. Scusate. Perché tu compri appartamenti, barche, seconda casa, terza casa con lo stipendio? Beh, ma è una specie di, cioè, lei va lì e dice, bene, il 15% dei tuoi guadagni a me. Io ti ho portato tot. Ma come ti ho portato? Tu questo tot l'avresti avuto? Sì, ma lui mette la tu palestra. Tu dici sì, no. E io ti dico no, chi vince? L'amministratore delegato, lui ha la palestra, lei no, quindi non capisco perché lei deve avere il 15% di una cosa che e allora tu fai girare la tua palestra senza tot. Quindi ti compri 7 pesi in meno, 3 macchine in meno. Quelle macchine lì mica le usano solo le persone che ti ho mandato io, le usano anche gli altri. Io mica ti chiedo niente sugli altri. Marico, mano, Gianna, trucca a me. Fammi le zinne della Hunzinge. Fammi la bocca della Basinge. Fammi il ciuffetto come Ratzinge. Che devo andare a parlare, a ballare, a frignare, a litigare, a scallettare. Dentro al pollaio de Marì, me vedi mamma sono qui, dentro al pollaio de Marì. La fabbrica di polli. Quanti produttori di macchine per distribuzione automatica di mangime per i polli esistono? 10, 12. Tu come fai a sapere qual è la migliore? È logico qual è la migliore. Compri questa qua, che dopo c'è, capito? Quella lì è la migliore. Qual è? Poi quella lì ti spara tutti i semi in un altro posto. Fa niente! Perché quella lì è il 15%. Hai capito? Hai capito, trottolino? It's a cruel world. Ma è così che gira. In the middle of nowhere. Come? Dai, come? Fai la ginnastica, ma cosa no, fai? Ma perché mi piace un altro esercizio ma fisico, stare vieni qui, vieni qui. Ma vedi? Scusa. Come sbattimento, Drago, poi ti confondi, no, lascia stare i polli. Scusa, non pensavo fossi tu. No, però. Come però? No, vabbè. No, vabbè. Vabbè, fa niente. No, scusa. No, no, perché tu, però esercizio fisico no, pollo, perché di qualcosa anche tu, K vuole farmi fare. No, lo so io a chi lo farei fare l'esercizio fisico. A chi lo vorresti fare? A qualcuno dei padroni, qua della fabbrica. Cos'è? Cosa vuol dire? Sì, un bel po' di esercizio fisico. Però chi dico io? Ma chi dici tu chi? Chi? Fai dei nomi e cognomi perché? Eh sì, perché io vengo a dirlo a voi due. Perché? È un segreto, no? Un segreto? Intanto qui le cose si stanno muovendo come voglio io. Cioè, ma come parla? Cosa? Non so. Non si capisce niente, pollo. Io sto organizzando un movimento di lotta armata. Cosa? Un movimento di lotta armata. Ma dove? Dove? Qui in fabbrica, no? Dove vuoi che lo faccia? Qui per forza, se no... Vi ricordate i bei tempi, no? Quelli delle BR. Ma cosa bei tempi? Ma pollo, ma lascia perdere. Perché? Guarda, ma come perché? Il terrorismo, le BR, finisci in un gioco più grande di te. Sei un pollo. L'esperienza poi dovrebbe insegnarti che nelle fabbriche vincono sempre i crumiri. Inutile dannarsi, fare tutto questo. Appunto. Io proprio a quelli che penso, eh? Preparo delle sorpresine anche per loro. Le sorpresine, ma cosa vuoi fare? Sequestri il lampo come ai tempi delle BR? Beh, certo. Sequestro il lampo. Prendiamo il crumiro, lo sbattiamo in gabbia, lo mettiamo lì appoggiato al muro, con dietro il bollettino del giorno per far capire che la foto è reale. Poi Tarek scatta una foto mentre qualcuno gli punta la pistola alla tempia, no? La P38. Qualcuno? Qualcuno. Sì, Tarek fa la foto, quindi gliela tieni tu la pistola puntata alla tempia. Posso tenerla io e poi tenerla qualcun altro. È il movimento che gliela tiene. Sì, ma sì, parliamo chiaro. Sì, collettivismo. Ma spiega com'è la foto. Bravo. Ci sei tu con la pistola puntata, quindi tu. Si vede. No? Non si vede. No? Si vede la testa del crumiro, il bollettino quotidiano e la pistola che entra di fianco, no? Puntata alla tempia. Ma sei tu che la tieni. Posso essere anch'io, ma non è detto. L'unica cosa sicura è che Tarek fa la foto. Vabbè, perché non è che diamo la pistola in mano a Tarek. Voglio dire. Sì, ma ho capito, la foto poi la mandate ai padroni e dite voi. La mandiamo ai padroni e poi qui, questo qui, lo lasciamo andare solo se ci date delle assicurazioni, delle garanzie sulla nostra sopravvivenza. No, ma non la sopravvivenza e basta. Una sopravvivenza decente. Sì, vabbè, però tu adesso fai teoria, però alla fine la pistola in pugno la tieni tu. E questa non è una bella cosa, no, con senti, il sbattimento. Qui non è importante chi tiene il pezzo. Il? Il pezzo, no? È la pistola, è in gergo. Il pezzo. Beh, certo che bel pezzo, no? Che cosa succederà adesso? Avranno successo i sequestri lampo? O si renderà necessario un inasprimento della disciplina di lotta? Lo scoprirete soltanto sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo brigatistico allestimento del... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Barlumen.